Capitolo 18. I raccolti. I campicelli prosperarono quell'estate e in settembre si fecero i piccoli raccolti con gran festa. Jack e Ned avevano unito i loro poderetti e vi avevano coltivato le patate, che erano un articolo facile da vendere. Ne ricavarono 12 staia, comprese le più piccole, e le vendettero al signor Baer per un buon prezzo, perché le patate in quella casa si consumavano in fretta. Emil e Franz si erano dedicati al Gran Turco e fecero una bella spannocchiatura. Dopodiché lo portarono al mulino e tornarono a casa tutti orgogliosi, con farina sufficiente per rifornire a lungo la famiglia di polentine e di stiacciate. Non vollero neanche un soldo perché, disse Franz, non potremmo mai ricompensare lo zio per quanto ha fatto per noi, neppure se coltivassimo Gran Turco sino all'ultimo giorno di vita. Ned aveva raccolto tanti fagioli che disperava di arrivare a sgusciarli finché la signora Jo ebbe una felice trovata. I baccelli secchi furono stesi sul pavimento del capannone, poi Nat imbracciò il violino e i ragazzi ballarono su di essi fino a che furono tutti sbucciati con molto divertimento e poca fatica. I fagioli quarantini di Tommy si risolsero in un fallimento perché si dimenticò di annaffiarli durante un periodo di siccità in principio di stagione. E in seguito, sicuro che se la sarebbero cavata da soli, li lasciò alle prese con le cimici e le erbacce finché persero ogni forza, languirono e morirono. Dovette dunque zappare di nuovo il suo poderetto e si volse ai piselli, ma era troppo tardi. Gli uccelli gliene mangiarono una parte, gli steli, non essendo piantati bene, si afflosciarono e quando i poveri piselli si decisero a comparire, nessuno se ne curò perché il loro tempo era passato. Tommy si consolò facendo un'opera caritatevole, trapiantò tutti i cardi che poté trovare, coltivandoli amorosamente per Toby, che era ghiotto di quel cibo prelibato e spinoso. I ragazzi si divertirono un mondo in quel campicello di cardi, ma Tom sosteneva che era meglio occuparsi del povero Toby che di se stesso, e dichiarò che l'anno seguente avrebbe dedicato tutto il suo podere a cardi, vermi e lumache, perché le tartarughe di Demi e la civetta cara a Nat avessero anch'essi, come l'asino, il cibo che amavano. Scioccherello d'un Tommy pieno di cuore, però, e di facile contentatura. Demi, durante tutta l'estate, aveva rifornita la nonna di lattuga e nell'autunno mandò al nonno un panierino di rape, illustrate una per una fino a sembrare uova gigantesche. La nonna andava matta per l'insalata e il nonno aveva fra le sue citazioni favorite: quando parer frugale a Lucullo garbava, rape arrosto in Sabina con piacere mangiava. Quindi i vegetali offerti ai cari dei domestici erano un dono affettuoso e appropriato, nonché classico. Daisy, nel suo pezzettino di terra, non aveva coltivato che fiori, i quali durante tutta l'estate avevano fornito mazzolini variopinti e profumati. Ella amava moltissimo il suo giardinetto e andava continuamente a zapparlo, curando le rose, le viole del pensiero, i piselli odorosi, il reseda, con la stessa tenera premura che spiegava per le sue bambole e i suoi piccoli amici. In ogni occasione dei mazzolini partivano per la città e alcuni vasi, nella casa, erano oggetto delle sue cure speciali. I fiori le ispiravano mille graziose fantasie. Raccontava volentieri ai piccoli la storia della viola del pensiero e mostrava loro la foglia matrigna, vestita di porpora e d'oro, seduta sul suo trono verde. I due figli, vestiti di un giallo vivace, ciascuno col suo piccolo seggio, e i figliastri, in abito scuro, tutti e due su uno sgabello, mentre il povero piccolo padre, col suo berretto da notte rosso, era messo in disparte, che non si vedesse nel centro del fiore. Mostrava come la faccia nera d'un frate sbucasse fuori dalla corolla della cappuccina e i fiori della vite e delle canarie fossero simili a vivaci uccelletti che sbattessero le ali gialle, quasi sul punto di spiccare il volo, e le bocche di leone sparassero come piccole pistole quando si facevano scoppiare. Splendide bambole ella faceva con papaveri rossi e bianchi, le vesti sbuffanti legate attorno alla vita da nastri di fili d'erba e straordinari cappelli di colliopsidi sulle teste verdi. Barche di gusci di piselli con foglie di rosa per vele accoglievano quel popolo floreale, cullandolo sopra un placido stagno nel più delizioso stile, perché, avendo scoperto che non c'erano più elfi, Daisy se li fabbricava e amava i piccoli amici creati dalla sua fantasia che partecipavano alla sua vita estiva. Nan aveva una bella collezione di pianticelle utili che curava con crescente interesse. In settembre fu molto occupata a tagliare, far seccare, legare in mazzetti il suo profumato raccolto e a scrivere in un libricino il modo di usare le varie erbe. Aveva fatto parecchi esperimenti e commessi parecchi errori, quindi desiderava di essere molto esatta per non provocare un nuovo attacco alla povera Hoots, somministrandole l'artemisia invece della cataria. Dick, Dolly e Rob avevano sarchiato a dovere il loro poderetto, dandosi da fare più di tutti gli altri messi insieme. Il raccolto dei 2D fu di pastinache e carote. I due bimbi, per affrettarlo, tiravano i preziosi vegetali e Dick esaminava segretamente le sue carote e poi le ripiantava, persuadendosi che Silas aveva ragione e che non era ancora il loro tempo. Il raccolto di Rob fu rappresentato da 4 zucchini e da un'immensa zucca. Era proprio colossale, come tutti riconobbero, e vi assicuro che 2 persone magre avrebbero potuto starvi sedute sopra. Pareva che essa sola avesse assorbito tutto il succo del campicello e tutto il sole che vi pioveva sopra. Era una grande palla rotonda di un giallo oro che faceva balenare alla mente suggestive visioni di torte per settimane e settimane. Robby era così orgoglioso di quella mastodontica zucca che conduceva tutti a vederla, e quando i primi freddi cominciarono a farsi sentire, la ricoprì ogni sera con una vecchia coperta da letto, rincalzandola tutti intorno come un adorato bambino. Il giorno del raccolto volle toccarla lui solo e per poco non si spezzò la schiena, trascinandola nel granaio sulla sua piccola carriola, con Dick e Dolly attaccati davanti per aiutarlo a risalire il sentiero. La mamma gli promise di servirsene per le torte destinate al giorno del ringraziamento e accennò vagamente a un suo progetto che avrebbe coperto di gloria la famosa zucca, nonché il suo proprietario. Il povero Billy aveva piantato dei cetrioli, ma disgraziatamente li aveva poi strappati, lasciando invece le erbacce. Ne fu afflittissimo per 10 minuti, poi se ne scordò e si mise a seminare una manciata di bottoni lucidi, evidentemente persuaso nel suo debole cervello che fossero monete e che sarebbero cresciute e si sarebbero moltiplicate così da poterne raccogliere molte staia, come Tommy coi suoi fagioli. Lo lasciarono fare quello che voleva del suo campicello, che presto ebbe l'aria di essere stato sconvolto da una serie di terremoti. Il giorno del raccolto generale, egli non avrebbe potuto esibire che sassi ed erbacce se la buona Asia non avesse appeso all'alberello secco da lui piantato nel centro dell'aiuola una mezza dozzina di arance. Billy fu quindi felice del suo raccolto e nessuno sciupò la sua gioia di fronte al piccolo miracolo dovuto alla pietà, per il quale dai rami secchi pendevano quei frutti singolari. Staffi subì molte dolorose prove coi suoi meloni perché, nell'impazienza di assaggiarli, ne fece una scorpacciata da solo prima che fossero maturi e si sentì così male da far temere per un giorno o due che non avrebbe mai più potuto mangiare. Ma se la cavò e servì il suo primo melone agli altri senza neppure assaggiarlo. Erano eccellenti perché aveva un terreno ben soleggiato e quindi maturavano in fretta. Gli ultimi e migliori, ancora attaccati ai tralci, Staffi annunziò che li avrebbe venduti a un vicino. Fu una delusione per i ragazzi che avevano sperato di mangiarseli loro e che manifestarono il loro malcontento in un modo nuovo e originale. Andando una mattina a guardare i 3 bei meloni che aveva riservati per il mercato, Staffi inorridì trovando la parola porco che, incisa in lettere bianche sulla buccia verde, pareva fissarlo da ognuno di essi. Furibondo, corse da mamma Jo per avere soddisfazione. Ella lo ascoltò, si condolse con lui e poi disse: «Ma se vuoi essere tu a ridere, ti insegnerò io il modo, ma devi rinunziare ai meloni». «Volentieri, perché non posso picchiare tutti i ragazzi, ma vorrei che avessero una lezione da ricordarsene per un pezzo. Brutti vigliacchi!» brontolò Staffi, sempre infuriato. Ora, mamma Jo credeva di sapere chi avesse giocato quel tiro, perché la sera prima aveva visto nell'angolo del divano 3 teste ravvicinate in modo molto sospetto. E quando poi quelle teste avevano fatto cenni di approvazione, accompagnati da sghignazzate e da mormorii, ella, con la sua esperienza, aveva capito che si stava combinando qualche birichinata. Una notte di luna, un fruscio sul vecchio ciliegio accanto alla finestra di Emily, un taglio sul dito di Tommy, tutto concorreva a giustificare i suoi sospetti. Quindi, calmata un po' con la collera di Staffi, Ella gli disse di portarle nella sua camera quell'infelice parte del suo raccolto senza dir nulla a nessuno di quanto era accaduto. Così egli fece. I tre burloni furono stupiti di vedere il loro scherzo preso così tranquillamente. Questo sciupava tutto lo spasso, mentre li teneva perplessi la scomparsa dei tre meloni, non meno della serenità di Staffi, che appariva più paffuto e roseo che mai, e li sogguardava con un'aria di calma compassione molto imbarazzante. All'ora del pranzo ne scopersero la ragione, quando la vendetta di Staffi li colpì in pieno viso e il ridicolo si ritorse su di loro. Mangiato il budino e servita la frutta, Mary Ann ricomparve tutta ilare e sogghignante con un grande melone. La seguiva Silas con un altro e Dan formava la retroguardia col terzo. Furono collocati davanti a ciascuno dei tre colpevoli che poterono leggere sulla liscia buccia verde questa aggiunta all'opera loro: coi complimenti del porco. Lessero anche gli altri e tutta la tavolata scoppiò a ridere perché lo scherzo era già corso di bocca in bocca e quindi tutti ne capirono la conclusione. Emil, Ned e Tommy non sapevano più da che parte guardare e, non potendo giustificarsi in nessun modo, ebbero il buon senso di ridere con gli altri, tagliare i meloni offrendoli in giro e dichiarare che Staffy aveva scelto un modo meno intelligente di render bene per male. Dan non possedeva un campicello suo, essendo stato assente e zoppo per la maggior parte dell'estate, ma aveva aiutato Silas per quanto gli era possibile, spaccato la legna per Asia e curato così bene il prato che i vialetti erano sempre puliti e l'erba ben tagliata davanti all'ingresso. Al momento del raccolto egli parve spiacente di avere così poco da esibire, ma venuto l'autunno pensò a un raccolto boschereccio che nessuno gli poteva disputare e che era una sua specialità. Ogni sabato se ne andava solo per i boschi, per i campi e per i colli e ne tornava sempre carico di bottino, poiché pareva conoscere i prati dove crescevano i più bei fiori autunnali, i cespugli dove i sassofrassi erano più aromatici, i recessi dove gli scoiattoli andavano in cerca di noci, la quercia bianca che aveva la corteccia più pregiata, i viticci di cuscuta con cui la bambinaia curava le piccole ferite. Ogni sorta di splendide foglie gialle e rosse portava a Mamma Jo, che ne adornava il salotto. Erbe dai graziosi semi, ciuffi di clematide, tralci di morbide, tenere, bacche gialle come la cera e muschi frangiati di rosso, bianchi o d'un verde smeraldo. Non ho più ragione ormai di patire la nostalgia dei miei boschi, perché Dan me li porta a casa, diceva Mamma Jo, mentre decorava le pareti con rami gialli di acero e festoni di madreselva scarlatta, o empiva i suoi vasi di felci rossicce, di frasche di abete piene di delicati coni, o di tardi fiori autunnali, perché il raccolto di Dan le piaceva molto. Il solaio era pieno delle piccole provviste dei ragazzi e per qualche tempo fu uno spettacolo per tutti. I semi dei fiori di Daisy in sacchettini di carta con la loro etichetta stavano nel cassetto d'un tavolo con tre gambe. L'erbe di Nan pendevano a fasci sulla parete, riempiendo l'aria del loro aroma. Tommy aveva un cestello di lanugine di cardi coi piccoli semi attaccati perché contava di seminarli l'anno dopo, se non fossero volati via tutti prima di allora. Emil aveva mazzi di pannocchi appesi a seccare ed Amy mucchi di ghiande e varie sorte di grani per gli animali preferiti. Ma il raccolto di Dan era quello che si presentava meglio. Più di metà del pavimento era coperto dalle sue noci. Ce n'erano di ogni specie perché aveva percorso i boschi per miglia e miglia. Si era arrampicato sugli alberi più alti e aperto il passo a fatica nelle siepi più fitte per fare il suo bottino. Noci, castagne, nocciole, fagiole occupavano scompartimenti separati, facendosi scure e secche e dolci per i festini dell'inverno. C'era un noce a Plumfield che Rob e Teddy consideravano come loro proprietà. Quell'anno aveva reso bene e le grosse noci scure cominciavano a cadere, nascondendosi fra le foglie morte, dove gli attivi scoiattoli le trovavano meglio dei piccoli Baer, troppo pigri. Il babbo aveva detto loro, ai bimbi, non agli scoiattoli, che avrebbero avuto le noci se le avessero raccolte senza l'aiuto di nessuno. Era un lavoro facile, a Teddy piaceva, ma si stancava presto e lasciava il suo cestino pieno solo fino a metà, riservandosi di continuare il giorno dopo. E intanto i vivaci scoiattolini lavoravano attivamente, balzando su e giù per i vecchi olmi e facendo provvista di noci fino a riempire tutti i loro buchi e tutte le biforcazioni dei rami, per rimuoverle poi con comodo. La loro curiosa attività divertiva i bambini, Ma un giorno Silas disse: Avete venduto le vostre noci agli scoiattoli? No, rispose Rob, senza capire che cosa intendesse. E allora fareste meglio sbrigarvi, se no quei malandrini non ve ne lasceranno neanche una. Oh, aspetta che cominciamo noi e poi vedrai, ce ne sono tante che ne avremo da vendere. Non ce n'è mica più molte da venir giù, eh? Guardate che bel repulisti hanno fatto. Robby corse a vedere e si spaventò constatando che ne rimanessero così poche. Chiamò Teddy e lavorarono di lena tutto un pomeriggio, mentre gli scoiattoli stavano a guardarli dalla barriera, squittendo in segno di protesta. Ora, Ted, bisogna far la guardia e raccattarli appena cascano, se no ne avremo appena uno staio e tutti ci rideranno dietro. Blu, titoiatoli, non le chiapelanno. Velto, velto, le metterò io nel granaio, disse Teddy, guardando scuro il piccolo Frisky che molto sdegnato schiamazzava spazzolandosi la coda. Quella notte un ventaccio fece cadere centinaia di noci e quando andò a svegliare i suoi figliolini, mamma Jo disse vivacemente: Su, bimbi cari, gli scoiattoli ci danno dentro e oggi dovrete lavorare sul serio, se no si prenderanno tutte le noci cadute. No, che non le prenderanno. E Robby, vestitosi in un baleno e mandata giù in fretta e furia la colazione, si precipitò fuori per salvare la sua proprietà. Teddy lo seguì e lavorò come un piccolo castoro, trotterellando avanti e indietro coi panieri pieni e vuoti. Un altro staio fu ben presto riposto nel granaio e la campana della scuola suonò che stavano ancora frugando fra le foglie in cerca di altre noci. Oh, babbo, lasciami star qui a raccoglierle, se no le prenderanno quei brutti scoiattoli, gridò Rob, precipitandosi nell'aula tutto rosso e scarmigliato per il vento e per l'ardore del suo lavoro. Se tu ti fossi alzato presto e avessi lavorato un po' ogni mattina, ora non avresti tanto fretta. Te l'avevo detto, Rob, ma tu non mi hai dato ascolto. Io non ti posso lasciar trascurare le lezioni come hai fatto col tuo raccolto. Agli scoiattoli quest'anno toccherà più della loro parte e se lo meritano perché hanno lavorato meglio di te. Ti lascerò uscire un'ora prima, ma niente di più. Il babbo accompagnò Rob al suo posto, dove l'ometto si precipitò sui libri, quasi per assicurarsi l'ora preziosa che gli era stata promessa. C'era da impazzire a restar lì seduto, vedendo le ultime noci cadere sotto il vento e gli svelti ladruncoli correre qua e là, sostare ogni tanto per mangiargliene una sotto il naso e agitare la coda quasi a dire impertinentemente: Noi le pigliamo nonostante te, pigrone di un Rob. L'unico conforto del povero piccino in quella dura prova era la vista di Teddy, che lavorava tutto solo con un coraggio e una perseveranza veramente splendidi, continuando a raccogliere noci con la schiena che gli faceva male, a correre avanti e indietro con le sue gambette stanche, sfidando vento e stanchezza e i perfidi toiattoli, finché la mamma lasciò il suo lavoro e venne a trasportar noci anche lei, piena di ammirazione per il bimbo buono che cercava di aiutare il suo fratellino. Quando Rob fu finalmente libero, trovò Teddy coricato in una cesta, stanco morto, ma ben deciso a non cedere il campo perché continuava ad agitare il cappello contro i ladri con una manina sporca, mentre si ristorava con una grossa mela tenuta nell'altra. Rob si mise al lavoro e prima delle due il terreno era spazzato, le noci riposte al sicuro nella soffitta del granaio e gli stanchi lavoratori esultavano del loro successo. Ma non era così facile debellare Frisky e la sua sposa, e quando Rob, pochi giorni dopo, salì a dare un'occhiata alle sue noci, fu sbalordito constatando quante ne erano sparite. Nessuno dei ragazzi avrebbe potuto rubarle, perché la porta era chiusa a chiave. Era impossibile che le avessero mangiate i piccioni, e di topi non ce n'erano. I piccoli Baer fecero un gran lamentarsi, ma Dick disse: Ho visto Frisky sul tetto del granaio, forse è stato lui. È stato lui di sicuro. Metterò una trappola e lo ammazzerò, gridò Rob, disgustato dall'avidità della bestiola. Forse se lo tieni d'occhio riuscirai a scoprire dove le mette e può darsi che io te le possa riprendere, disse Dan, molto divertito da quella lotta fra ragazzi e scoiattoli. Così Rob montò la guardia e vide il signore e la signora Frisky calarsi dai rami spioventi dell'olmo sul tetto del solaio, insinuarsi per una delle piccole porte, con grande emozione dei piccioni, e uscire con una noce in bocca per ciascuno. Così carichi, non potevano rifare la via per cui erano venuti, ma correvano giù per il basso tetto, lungo il muro, e con un salto di fianco scomparivano un attimo, per ricomparire senza la loro preda. Rob Corse sul posto e in un buco sotto le foglie trovò un mucchio delle sue noci nascoste per essere poi trasportate via via nei loro ripostigli. Ah, piccoli bricconi, ora ve la faccio vedere io e non ve ne lascerò neanche una, disse Rob. Infatti, vuotò la buca e il granaio e ripose le noci contestate in una soffitta, dopo essersi assicurato che non ci fosse qualche vetro rotto per cui potessero entrare gli incorreggibili scoiattoli. Essi però parvero aver compreso che la questione era ormai chiusa, perché si ritirarono nelle loro tane, senza peraltro resistere alla tentazione di gettare ogni tanto dei gusci di noce sulla testa di Rob, schiamazzando come se non potessero né dimenticare né perdonargli di essere uscito vincitore dalla lotta. Il raccolto di papà e mamma Bayer fu di un genere diverso, che non è facile descrivere, ma essi ne furono soddisfatti, consci che il loro lavoro estivo era andato bene e la messe che ebbero in seguito li rese felici. Capitolo 19. John Brooke. Svegliati, caro Demi, ho bisogno di te. Ma se mi sono appena coricato, non può ancora essere mattina. E Demi sbatteva le palpebre come un piccolo gufo, svegliandosi dal primo sonno profondo. Sono appena le 10, ma il tuo babbo è malato e dobbiamo andare da lui. Oh, mio povero John, mio povero piccolo John. E la zia Jo appoggiò la testa sul cuscino con un singhiozzo che mise in fuga il sonno dagli occhi di Demi, riempiendogli il cuore di paura e di stupore. Nella confusa intuizione del motivo per cui la zia lo aveva chiamato John e piangeva su di lui come se avesse subito una perdita che lo lasciasse derelitto. Si attaccò a lei senza una parola, ma in un attimo ella si riprese e disse, baciandolo teneramente alla vista del suo visetto sconvolto, «Bisogna andare a dirgli addio, caro, e non c'è tempo da perdere. Vestiti in fretta e vieni in camera mia. Devo andare da Daisy». «Subito, zia». Quando ella fu uscita, il piccolo Demi si alzò senza far rumore. Si vestì come in sogno, lasciando Tommy addormentato e attraversò la casa silenziosa, col presentimento che qualcosa di nuovo e di doloroso stesse per accadere. Qualcosa che per qualche tempo lo avrebbe reso diverso dagli altri ragazzi, facendogli apparire il mondo buio e silenzioso, e strano come gli apparivano quelle stanze familiari viste di notte. Una carrozza, mandata dal signor Lori, stava alla porta. Daisy fu subito pronta. I due bimbi si tennero per mano durante tutto il tragitto fino alla città, mentre insieme con gli zii correvano silenziosamente attraverso le strade oscure per andare a dire addio al loro babbo. Nessuno dei ragazzi, tranne Franz e Emil, era al corrente della cosa. E quando l'indomani mattina scesero dalle camere, grande fu il loro stupore e il loro sgomento perché la casa, senza i suoi padroni, pareva un deserto. La colazione fu molto triste, mancando l'allegra signora Jo dietro la teiera. E all'ora della scuola il posto di papà Bayer rimase vuoto. Girellarono qua e là sconsolati per un'ora attendendo notizie e sperando che il babbo di Demi potesse guarire, perché il buon John Brooke era molto amato dai ragazzi. Suonarono le 10 e nessuno arrivò a sollevarli dalla loro ansietà. Non avevano voglia di giocare e il tempo si trascinava lentissimo mentre ciondolavano di qua e di là, preoccupati e incapaci di fare qualcosa. Tutto a un tratto Franz disse col suo tono persuasivo: «Sentite, ragazzi, andiamo in classe e facciamo le nostre lezioni come se ci fosse lo zio. La giornata passerà più in fretta e lui sarà contento, ne sono certo». «Ma chi ce le sentirà?» chiese Jack. «Io? Non sono molto più di voi, ma qui sono il più vecchio e tenterò di tenere il posto dello zio finché non torna, se non vi rincresce». Qualcosa, nel tono modesto e serio di Franz, colpì i ragazzi, perché sebbene gli occhi del povero figliolo fossero rossi per le lacrime silenziose sparse in quella lunga, triste notte, c'era in lui come una nuova virilità, quasi già avesse cominciato a sentire le preoccupazioni e le difficoltà della vita e tentasse di affrontarle coraggiosamente. «Io, per conto mio, son disposto», ed Emil andò a occupare il suo posto, ricordando che l'ubbidienza all'ufficiale di grado superiore è il primo dovere di un marinaio. Gli altri lo seguirono, Franz si mise al posto dello zio e per un'ora regnò il massimo ordine. Le lezioni furono spiegate e ripetute, e Franz si dimostrò un maestro paziente e simpatico. Evitò opportunamente le materie troppo difficili per lui e mantenne la disciplina, più con l'inconscia dignità che gli dava il dolore che con le parole che pronunziava. I più piccoli si esercitavano nella lettura quando si sentì un passo nel vestibolo. Tutti alzarono gli occhi per leggere le notizie sul volto del signor Baer che entrava. E quel dolce volto, tirato e pallido e tutto soffuso di un accorato dolore, rivelò subito che Demi non aveva più il suo babbo. Egli fu incapace di rispondere a Rob, che gli correva incontro, dicendogli in tono di rimprovero: «Perché sei andato via e mi hai lasciato solo stanotte, papà?» Il ricordo di quell'altro padre, che aveva lasciato i suoi bimbi nella notte per non tornare mai più, lo spinse a stringersi sul suo cuore il suo piccino e a nascondere per un attimo la faccia nei suoi capelli ricciuti. Emil gli posò una mano sul braccio e Franz gli appoggiò la sua sulla spalla, pallido di simpatia e di dolore, mentre gli altri rimanevano in un silenzio così assoluto che si poteva sentire distintamente il leggero fruscio delle foglie che cadevano al di fuori. Rob non capì bene che cosa fosse successo, ma non poté sopportare la vista del suo babbo infelice e, sollevando la testolina abbassata, disse con la sua vocetta garrula: «Non piangere, mein Vater. Siamo stati tutti buoni, abbiamo fatto le nostre lezioni anche senza di te, e Franz era il maestro». Allora il signor Baer alzò gli occhi cercando di sorridere e disse con un tono riconoscente che dette ai ragazzi l'impressione di essere stati addirittura dei santi: «Vi ringrazio molto, figlioli miei, è stato il miglior modo di aiutarmi e di darmi conforto. Non lo dimenticherò, statene certi». «L'ha proposto Franz ed è stato un maestro numero uno», disse Nat, e gli altri assentirono con un mormorio che riuscì molto gradito al giovane professore. Il signor Baer posò a terra Rob e, alzatosi, circondò col braccio le spalle dei nipoti e disse, con uno sguardo di sincero compiacimento: «Questo rende più facile la dura giornata che mi aspetta e mi ispira fiducia in voi tutti. Devo tornare in città e son costretto a lasciarvi per alcune ore. Avevo pensato di darvi vacanza o di mandare qualcuno di voi a casa, ma se preferite restare qui e continuare come avete cominciato, io sarò contento e fiero dei miei bravi ragazzi». «Staremo qui, preferiamo restare. Franz può sorvegliarci», gridarono parecchi di loro, felici di godere tanta fiducia. «Mammina non torna a casa?» chiese Rob in tono malinconico, perché la casa senza mammina era per lui come il mondo senza sole. «Torneremo tutti e due stasera, ma la cara zia Meg ora ne ha bisogno più di voi, e son certo che vorrete prestargliela per un po' di tempo». «Beh, io sì, ma Teddy piange perché la vuole e ha picchiato la bambinaia, ed è stato spaventosamente cattivo», rispose Rob come se quella notizia potesse ricondurre a casa la mamma. «Dov'è il mio ometto?» chiese papà Baer. «Lo ha condotto fuori Dan per farlo stare tranquillo. Ora si è calmato», disse Franz, indicando la finestra attraverso la quale si poteva vedere Dan che trascinava il bimbo nella sua carrozzina coi cani che gli saltavano attorno. «È meglio che non mi veda, non servirebbe che a metterlo di nuovo in agitazione. Ma dite a Dan che lo lascio affidato a lui. Voi che siete più grandi son certo che saprete comportarvi bene per un giorno. Franz vi dirigerà e Silas è qui per sorvegliarvi, quindi arrivederci a stasera». «Dimmi qualcosa dello zio John», pregò Emil trattenendolo mentre stava uscendo in gran fretta. «È stato malato solo poche ore ed è morto come è vissuto, così sereno e pacifico che sembra un peccato sciupare la bellezza di quella fine con un dolore violento ed egoistico. Siamo arrivati in tempo per dirgli addio e Daisy ed Amy erano fra le sue braccia quando si è addormentato sul petto della zia Meg. Ma basta, mi fa troppo male». E se ne andò, incurvato dal dolore, perché con John Brooke aveva perduto un amico e un fratello di cui nessuno rimaneva a prendere il posto. Per tutto quel giorno la casa fu molto tranquilla. I piccoli giocarono quieti nella stanza della bambinaia. Gli altri, quasi la domenica fosse capitata a metà della settimana, trascorsero le ore passeggiando o sul salice o fra gli animali favoriti e parlarono molto dello zio John, consci che qualcosa di gentile, di giusto e di forte era uscito dal loro piccolo mondo, lasciando un senso di vuoto che si faceva più acuto di ora in ora. Verso sera il signore e la signora Baer tornarono soli, perché Demi e Daisy ora erano il miglior conforto della loro mamma e non la potevano lasciare. La povera signora Jo appariva disfatta ed evidentemente sentiva il bisogno dello stesso genere di conforto, perché le sue prime parole salendo la scala furono: «Dov'è il mio bimbo?» «Etomi», rispose una vocina, e Dan le pose fra le braccia Teddy, che mentre essa se lo stringeva al petto aggiunse: «Danny mio mi è stato dietro tutto il giorno, io t'ho notato buono, buono». Volgendosi a ringraziare il fedele bambinaio, la signora lo vide che stava congedando i ragazzi raccolti nel vestibolo per salutarla, dicendo loro a mezza voce: «Andate via, non ha voglia di essere seccata da noi ora». «No, non andate via. Vi voglio tutti qui. Venite pure, figliuoli miei». E la signora Jo tese loro la mano. Poi i ragazzi l'accompagnarono fino alla sua camera, poco dicendo, ma esprimendo molto con gli sguardi affettuosi e coi timidi sforzi per dimostrare il loro dolore e la loro simpatia. «Sono tanto stanca. Mi sdraierò qui a coccolare il mio Teddy e voi mi porterete il tè», disse, tentando di parlare lietamente per amore loro. Ne seguì una corsa generale nella stanza da pranzo e la tavola sarebbe stata saccheggiata se non si fosse intromesso il signor Baer. Si accordarono che una squadra le avrebbe portato il tè e un'altra avrebbe riportato indietro la roba. I quattro più vicini a lei e più cari reclamarono il primo onore. Così Franz ebbe la teiera, Emily il pane, Robby il latte e Teddy insisté per portare la zuccheriera, che arrivò a destinazione alleggerita di parecchie zollette. Un'altra donna avrebbe forse trovato noiosa in quel momento la confusione di tutti quei ragazzi che entravano e uscivano rovesciando tazze, sbattendo cucchiaini, nei loro violenti sforzi di far le cose con garbo e di rendersi utili. A lei, invece, piaceva, perché il suo cuore era allora particolarmente tenero, e ricordando che alcuni dei suoi ragazzi non avevano né babbo né mamma, ella si commuoveva e trovava conforto nel loro tempestoso affetto. Quello era un cibo che la ristorava più delle spesse fette di pane imburrato, e le parole dette con voce spezzata dal comodoro: «Coraggio, zietta, il colpo è duro, ma vinceremo la burrasca», la rianimarono più della tazza appiccicaticcia che egli le presentava, piena di tè amaro, come se qualche lacrima vi fosse caduta dentro. Quando ebbe finito, una seconda deputazione venne a portar via il vassoio e Dan, tendendo le braccia all'insonnolito Teddy, disse: «Lasci che lo metta a letto io. Lei, mamma, è troppo stanca». «Vuoi andare con lui, tesoro?» chiese la signora Jo al suo piccolo signore e padrone, che riposava sul suo braccio fra i cuscini del divano. «Sì, voglio». E il suo fedele custode lo portò via tutto fiero. «Vorrei poter fare anch'io qualcosa», sospirò Nat, mentre Franz si chinava sul divano a carezzare dolcemente la fronte ardente della zia. «Ma lo puoi, caro. Va a prendere il tuo violino e suonami le dolci ariette che lo zio Teddy ti ha mandato ultimamente. La musica sarà il miglior conforto per me stasera». Nat volò a prenderlo. E seduto fuori dell'uscio suonò come non aveva suonato mai, perché ora ci metteva il cuore che sembrava magnetizzargli le dita. Gli altri se ne stavano in silenzio sugli scalini, attenti che nessuno venisse a disturbare. Franz non si muoveva dal suo posto e così, confortata, servita e vigilata dai suoi ragazzi, la povera signora Jo finì per addormentarsi, dimenticando per un'ora il suo dolore. Seguirono 2 giorni di calma, e nel terzo il signor Baer, subito dopo le lezioni, comparve tenendo un biglietto in mano con aria commossa e compiaciuta. «Voglio leggervi qualcosa, figlioli», disse, e quando li ebbe tutti intorno, cominciò: «Caro fratello Fritz, ho saputo che non hai intenzione di condurre oggi qui i tuoi ragazzi temendo che ciò possa dispiacermi. Ti prego invece di farlo. La vista dei suoi amici consolerà Demi in questa triste ora e io desidero che si sentano quello che il babbo dirà del mio John. Son certa che ne trarranno vantaggio e se volessero cantare uno di quei cari vecchi inni che tu hai insegnato loro così bene, mi farebbe più piacere di qualsiasi altra musica e sento che sarebbe il più adatto in questa circostanza. Pregali di questo e salutali affettuosamente. Meg». «Volete andare?» E il signor Baer fissò i ragazzi che erano molto commossi dalle parole e dal gentile desiderio della signora Brooke. «Sì», risposero a una voce, e un'ora dopo partirono con Franz per partecipare ai semplici funerali di John Brooke. La piccola casa sembrava quieta, piena di sole e intima, come quando Meg vi era entrata sposa 10 anni prima. Ma allora era il principio dell'estate e le rose fiorivano da ogni parte, mentre ora era il principio dell'autunno e le foglie morte frusciavano dolcemente staccandosi dai rami. Al posto della giovane sposa era ora una vedova, ma la stessa bella serenità le illuminava il volto e la dolce rassegnazione di un'anima veramente pia faceva della sua presenza un conforto per quelli stessi che venivano a recarlo a lei. «Oh, Meg, come puoi sopportarlo così?» mormorò Joe quando ella venne loro incontro sulla porta, accogliendoli con un sorriso, senz'altro cambiamento nel suo contegno che una maggiore dolcezza. «Cara Joe, l'amore che mi ha benedetta per 10 anni felici mi sostiene ancora. Non potrà mai morire. E John è mio più che mai», bisbigliò Meg, e nei suoi occhi la tenera fiducia era così bella e luminosa che Joe le credette e ringraziò Iddio per l'immortalità di un tale amore. Erano presenti tutti, il padre, la madre, lo zio Teddy e la zia Amy, il vecchio signor Lawrence ormai canuto e debole, i Baer coi ragazzi e molti amici venuti a rendere onore al morto. Sarebbe stato logico pensare che il modesto John Brooke, nella sua quieta e umile vita di lavoro, non avesse avuto molto tempo per farsi degli amici, ma ora ne sbucavano da ogni parte, vecchi e giovani, ricchi e poveri, persone altolocate e di umile condizione, poiché la sua influenza, sia pure inconsciamente, si era fatta sentire in una larga sfera, le sue virtù erano ricordate e le sue segrete carità si levavano a benedirlo. Il gruppo attorno alla bara era un elogio molto più eloquente di ogni discorso del signor March. C'erano i ricchi signori che gli aveva serviti fedelmente per anni, le povere vecchie che aiutava coi suoi risparmi in memoria di sua madre, la moglie cui aveva dato tanta felicità che neppure la morte poteva del tutto offuscarla, i fratelli e le sorelle nel cui cuore aveva acquistato un posto per sempre, il figlioletto e la bimba che già sentivano la mancanza del suo forte braccio e della sua tenera voce, i fanciulli che singhiozzavano pensando al migliore dei loro compagni di gioco e i ragazzi più grandi che osservavano, commossi, una scena indimenticabile. Fu un servizio religioso molto semplice e molto breve, perché la voce paterna, che aveva tremato compiendo il rito del matrimonio, ora venne meno del tutto quando il signor March tentò di pagare il suo tributo di affetto e di rispetto al figlio che tanto onorava. Il lungo silenzio che seguì l'ultimo amen fu rotto solo dalla vocetta della piccola Josie al piano di sopra, poi a un segno del signor Baer. Le voci armoniose dei ragazzi intonarono un inno così pieno di gaudio sublime che a poco gli altri si unirono ad essi, cantando con tutto il cuore e sentendo i loro spiriti afflitti sollevarsi nel regno della pace sulle ali di quel dolce salmo pieno di fede. Ascoltandoli, Meg comprese che aveva avuto ragione di farli venire, perché non solo la confortava il pensiero che l'ultima ninna nanna di John fosse cantata dalle giovani voci che egli amava tanto, ma perché sulle facce dei ragazzi leggeva come all'animo loro si fosse svelata la bellezza della virtù nella sua forma più persuasiva e come la memoria dell'uomo buono che giaceva lì morto sarebbe vissuta a lungo benefica nel loro ricordo. La testolina di Daisy le riposava in grembo, Demi le teneva una mano, guardandola spesso con occhi simili a quelli di suo padre, con un piccolo gesto che sembrava dire «Non preoccuparti, mamma, ci sono io», ed era circondata da amici cui poteva appoggiarsi e chiamava. Quindi la paziente, pia Meg, sgombrò da sé l'opprimente dolore, sentendo che il suo migliore aiuto sarebbe stato vivere per gli altri, come aveva fatto il suo John. Quella sera, seduti al solito sui gradini del mite plenilunio di settembre, i ragazzi di Plumfield vennero naturalmente a parlare dell'avvenimento del giorno. Cominciò Emil dichiarando col suo solito impeto: «Lo zio Fritz è il più saggio, lo zio Lori il più allegro, ma lo zio John era il migliore. E vorrei essere come lui, piuttosto che come chiunque altro». «Anch'io. Hai sentito che cosa dicevano oggi quei signori al nonno? Vorrei che si dicesse lo stesso di me quando sarò morto». E Franz provò un vivo rammarico di non aver saputo abbastanza apprezzare lo zio John. Che dicevano? Chiese Jack, che era rimasto molto impressionato dalle scene di quel giorno. Uno dei soci del signor Lawrence, presso cui lo zio John era stato tanto tempo, diceva che la sua onestà era così scrupolosa da divenire quasi un difetto in un uomo d'affari, e irreprensibile in ogni caso. Un altro signore diceva che nessuna somma avrebbe potuto compensare la fedeltà e l'onestà con cui lo zio John lo aveva servito. E allora il nonno ha raccontato la cosa più bella. Lo zio John, una volta, era impiegato nell'ufficio di un imbroglione, e quando quest'uomo lo volle suo complice, lo zio rifiutò, nonostante l'alto stipendio che gli veniva offerto. Quell'altro allora si irritò e disse: «Non andrete mai avanti negli affari con dei principi così rigidi». E lo zio rispose: «Io non cercherò mai di andare avanti senza di essi», e lasciò il posto per occuparne uno molto più faticoso e meno retribuito. «Bene!» esclamarono con slancio alcuni dei ragazzi che si trovavano nella disposizione di spirito più adatta per comprendere ed apprezzare quel gesto. «Era ricco?» chiese Jack. «No. Non ha mai fatto nulla che lo mettesse in vista?» «No. Era soltanto buono?» «Tutto qui», rispose Franz, rimpiangendo che lo zio John non avesse fatto qualcosa da poter magnificare, perché era evidente che le sue risposte avevano deluso Jack. «Soltanto buono. Ma questo significa tutto. Lasciate che vi parli un po' di John Brooke», disse il signor Byer, intuendo quello che passava nella mente dei ragazzi, «e capirete perché la gente lo onora, e perché abbia preferito essere buono anziché ricco e famoso. Egli faceva semplicemente il suo dovere in ogni campo, ma lo faceva con tanta gioia e costanza che poté mantenersi paziente, coraggioso e felice, nonostante la povertà, la solitudine e gli anni di duro lavoro. Fu un buon figlio e rinunziò ai suoi progetti per rimanere con sua madre quando aveva bisogno di lui. Fu un buon amico e insegnò a Lori assai più del greco e del latino, inconsciamente forse, dandogli l'esempio della rettitudine. Fu un impiegato fedele, tanto apprezzato da coloro che si servivano dell'opera sua, che molto difficilmente troveranno da sostituirlo. Fu un buon marito e un buon padre, così tenero, assennato e pieno di premure, che Lori ed io imparammo molto da lui, e abbiamo compreso quanto amasse la sua famiglia solo venendo a scoprire tutto quello che aveva fatto per essa, senza che nessuno lo sapesse o lo aiutasse. Il signor Baer tacque un istante. I ragazzi rimasero immobili come statue nel lume di luna, finché egli proseguì a voce più bassa, ma con tono più grave. Quando era vicino a morire, gli ho detto: «Non preoccuparti per Meg e per i piccoli, provvederò io che non manchino di nulla». Allora ha sorriso e mi ha stretto la mano, rispondendomi col suo solito tono vivace: «Oh, non ce n'è bisogno, ho provveduto a loro». E così è, infatti, perché abbiamo trovato tutte le sue carte in ordine, non un soldo di debito e i suoi risparmi sufficienti per dare il benessere e l'indipendenza a Meg. Abbiamo capito allora perché viveva così modestamente, rifiutandosi tanti piaceri tranne quelli derivanti dalla sua carità, e lavorava a tal punto che io temevo avesse da abbreviarsi la sua nobile esistenza. Mai chiedeva aiuto per sé, ma spesso per gli altri. Sopportava i suoi pesi e assolveva il suo compito coraggiosamente e silenziosamente. Nessuno può dire una parola contro di lui. Tanto era giusto, generoso e cortese. E ora che non c'è più, tutti trovano tante ragioni di amarlo e di apprezzarlo e di onorarlo, che io sono orgoglioso di essere stato suo amico, e preferirei lasciare ai miei figli l'eredità che gli lascia i suoi, anziché la più grande delle fortune. Proprio così, la semplice, schietta bontà è il miglior capitale su cui basare gli affari di questa vita. Dura quando la fame e il denaro vengono meno, ed è l'unica ricchezza che possiamo portar via da questo mondo con noi. Ricordatevelo, figlioli, e se volete conquistarvi il rispetto, la confidenza e l'amore, seguite l'esempio di John Brooke». Quando Demi tornò a scuola, dopo alcune settimane passate a casa, sembrava aver superato il suo dolore con la beata elasticità dell'infanzia, e così era fino a un certo punto. Ma non dimenticava, perché la sua era una di quelle nature su cui le cose incidono profondamente, per essere poi ripensate e assorbite nel terreno dove le piccole virtù si sviluppano in fretta. Giocava e studiava, lavorava e cantava come prima, e pochi sospettavano un cambiamento in lui, eppure il cambiamento c'era, e la zia Jo lo notò subito perché ella vegliava sul fanciullo con tutto il cuore, cercando per quanto poteva di tenere il posto di John. Di rado gli parlava della perdita subita, ma la notte la zia sentiva spesso dei singhiozzi soffocati provenire dal suo letto, e quando accorreva a confortarlo, egli non sapeva che esclamare «Voglio il mio papà! Voglio il mio papà!» perché il legame fra loro era stato tenerissimo e il cuore del fanciullo sanguinava che si fosse spezzato. Ma il tempo fu benevolo con lui e piano piano egli venne a sentire che il suo babbo non era perduto, ma solo temporaneamente invisibile e che l'avrebbe ritrovato senza fallo, sano e forte e affettuoso, come sempre, anche se il suo figlioletto doveva vedere gli aster rossi fiorire sulla sua tomba molte volte prima che si riunissero. A questa fede Demi si attaccava, trovandovi aiuto e conforto, perché inconsciamente, attraverso il tenero desiderio del padre che aveva veduto, lo guidava un'infantile fiducia del padre invisibile. Erano ambedue in cielo ed egli li pregava, tanto l'uno che l'altro, cercando di essere buono per amor loro. Il cambiamento esterno corrispondeva a quello interno. In poche settimane Demi sembrava essere cresciuto. Aveva cominciato a rinunziare ai suoi giochi puerili, non che se ne vergognasse come fanno certi ragazzi, ma perché non più adatti a lui, che sentiva il bisogno di qualcosa di più maturo. Si dedicò all'odiata matematica con tale fermezza che lo zio ne fu tutto contento, sebbene non riuscisse a capirne la ragione, finché Demi gli disse «Quando sarò grande farò il ragioniere come papà». E bisogna che impari bene l'aritmetica e tutto il resto, se no non potrò tenere i registri in ordine, come faceva lui. Un'altra volta andò dalla zia con un viso molto serio per dirle «Che può fare un ragazzino per guadagnare del denaro?» «Perché me lo chiedi, caro?» «Il babbo mi disse di prender cura della mamma e delle bambine, e io voglio farlo, ma non so da dove cominciare». «Ma lui non intendeva ora, Demi, intendeva in seguito, quando sarai grande». «Ma io voglio cominciare ora, se è possibile, perché penso che dovrei guadagnare per comprare qualcosa per la famiglia. Ho 10 anni e ci sono ragazzi che alla mia età guadagnano già dei soldi». «Bene, che ne diresti di rastrellare tutte le foglie secche e di coprire l'aiola delle fragole? Ti darei $1 per questo lavoro». «Non è troppo? È un lavoro che posso fare in un giorno? Devi essere giusta e non pagarmi troppo perché io desidero guadagnarmeli sul serio». «Mio piccolo John, io sarò giusta e non ti darò un centesimo di troppo. Quando avrai finito, troverò qualche altra cosa da farti fare», promise la signora Jo, molto commossa dal suo desiderio di rendersi utile e da quel senso di giustizia pari a quello del suo scrupoloso babbo. Rastrellate le foglie, molte carriole cariche di schegge furono spinte dal bosco alla legnaia e un altro dollaro fu guadagnato. Poi Demi aiutò a ricoprire i testi scolastici lavorando di sera, sotto la direzione di Franz, e ricevette il suo compenso con tale soddisfazione che i sudici biglietti acquistarono un'aureola di gloria ai suoi occhi. «Ora ho $1 per ognuna di loro e sarei contento di portare il mio denaro alla mamma perché veda che ho dato ascolto a mio padre». Così Demi fece un doveroso pellegrinaggio dalla madre, che ricevette i suoi guadagni come un tesoro inestimabile, e li avrebbe conservati intatti se egli non l'avesse scongiurata di comprare qualcosa di utile per sé e per le bimbe, che egli sentiva affidate alle sue cure. Questo lo rese molto felice, e sebbene spesso dimenticasse per qualche tempo le sue responsabilità, il suo desiderio di rendersi utile persisté rafforzandosi con gli anni. Pronunciava sempre le parole «mio padre» con un tono di gentile orgoglio e spesso diceva, quasi a reclamare un titolo onorifico, «non mi chiamate più Demi, ora sono John Brooke». Così forte, di un buon proposito e di una viva speranza, il ragazzino di 10 anni affrontò coraggiosamente la vita e prese possesso della sua eredità, la memoria di un padre saggio e tenero, il lascito di un uomo onesto.